Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Sono come San Tommaso, non credo se non vedo. Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. Stiamo parlando di un personaggio che passerà alla storia, descritto in questo modo. Che titolo di studi hai? La quinta elementare. Che hai fatto nella vita? Niente. Che vuoi fare da grande? Presidente del Consiglio. Bisogna ripetere che in questo momento il vicepresidente della Camera si mette in tasca 13.000 euro netti al mese, ma non lo dice nessuno. E così si può consentire di andare in piazza a saltare, onestà, onestà. Per ricordare che per fare politica non tutti possono essere miliardari, perché mentre il noto comico che guida le 5 Stelle si può consentire in estate di farsi le vacanze, prima a Malindi, poi sulla Costa Smeralda e poi nella seconda villa che ha Marina di Bibbona, i cristiani normali, se vogliono fare attività politica, devono essere minimamente tutelati. O rubano o si fanno le polizze a loro insaputa. L'Italia di oggi è veramente un grande circo, è questo. Ci voleva questa versione di Jimmy per iniziare questo lunedì, eh? Sentilo, sentilo. Signori, signori, signore e signori, ben ritrovati a 24 mattino, sono le 6:32 minuti, è lunedì. Vai, Jim. Buongiorno Alessandro e buon lunedì! Vai di brutto che oggi si lavora! Yuppi! È tornato De Luca, il nostro presidentissimo, pronto alla conduzione 4.0 di 24 mattino! E com'è tornato, signori? Vabbè, con un solito, una solita intervista esondante sull'Ira TV, senza domande, solo risposte. Che bisogna c'è delle domande? Tutte risposte, tutti chiarimenti. Insomma, signori, a Pandino ci sono 5 gradi, mentre a Loreto ci sono 11 gradi. Ma che spettacolo vedere di nuovo l'alba, A Roncaglia, Padova, 7 gradi, salutiamo Lorenzo, mentre 8 gradi e buio pesto a Peia. 21 gradi a Perth, da Chiara. Chiara! Chiara, i tuoi genitori erano in prima fila ieri a vedere Platone. A vedere Platone. Poi gli ho detto, esco di qui, ci facciamo la foto. Sono uscito da lì, ma non li ho più trovati. Era tardi, però insomma, erano... Volevano una foto. Mi spiace, la prossima volta, Chiara. A Correggio ci sono 6 gradi, 10 gradi a Roma Nord, 7 gradi a Cernusco sul Naviglio, 7 gradi a Teramo, a Maddaloni piove, a Valenza 9 gradi, ventoso. Salutiamo Dani. E così si va avanti. A Salerno 10 gradi, se De Luca decide che va bene. C'è una signora che disturba anche quando sta a 100 metri di distanza. Non è questa chiattona. Presidente, questo no. La chiattona, c'è una giornalista. Presidente, questo no. Questa chiattona. Abbiamo qua il chiattone! Marione Adinolfi, buongiorno Marione, ecco, come stai? Eccolo qua, buongiorno. Quante volte ti hanno detto sto chiattone a Napoli? Beh, ovviamente, 100.000 volte al giorno, praticamente, nelle varie declinazioni dialettali italiane. Vabbè. Eccolo qua. Ma chiattone è anche un festeggiativo a Napoli, anche una cosa simpatica. Sì, dici. Ma sta tutto casino, francamente, mi pare sotto. Stacchiattona. Non so, vediamo un po'. Vogliamo insieme a Mariona Adinolfi, direttore della Croce, salutare Silvia Brasca. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Ecco. 15 gradi punto 1. Quindi 15 gradi punto 1. Ma come 15 rotto. Gradi? Ma... È troppo caldo, difatti, secondo me deve essere rotto. Ma c'è qualcosa che non funziona a casa tua? A Milano non ci sono 15 gradi. Stamattina faceva anche freschino. Mi ha permesso il sensore vicino a qualcosa di deve caldo. Sì, vicino al camino forse hai messo. Mamma mia, inattendibile. No, sei veramente una giornalista inattendibile. 15 gradi punto 1 è falso. Signori, dai, apriamo il Parlamento perché è tornato De Luca alla grande, ne ha combinato la grande. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. C'è Renzi, ci sono gli scissionisti che si stanno scindendo. Questa è bellissima, è bellissima. Pare stiano litigando gli scissionisti, alla fine rimangono, non lo so. La scissione degli scissionisti, c'è anche questo da dire. C'è Berlusconi che punta al nuovo candidato che è un ministro di Renzi, cioè di Gentiloni, messo lì da Renzi. Calenda, no vabbè, ma ragazzi, la politica italiana regala. C'è Salvini che difende la repressione di Putin sulla stampa, dice beh insomma questa manifestazione in Russia non era autorizzata, quindi Salvini dice che ha fatto bene Putin a far arrestare un migliaio di persone perché così si fa. E vabbè, è la politica italiana bellezza, si potrebbe dire. Allora, caro Marione, di cosa ci vuoi raccontare? Tu non c'è neanche il campionato, è un lunedì di serenità per tutti noi. La nazionale ha vinto, però. La nazionale ha vinto, la Ferrari ha vinto, non so. Prima pagina del Corriere della Sera, 205.000 pillole abortive. Distribuita nel solo 2016. Io lo sapevo che lui voleva iniziare da qui. Eh no, sei tu che oggi ti vedo scarico, quindi ti accendo subito. Va bene, accendiamo subito la questione. E allora, qual è il problema? È aumentata del 96%. Per 15 in due anni. Il dato del 2014 era, mi pare, qualcosa di 15.000, adesso è diventato 205.000. Esatto, delle pillole, dei cosiddetti 5 giorni dopo, cioè le pillole. Ma secondo te, se non si fanno più figli dentro questo paese, è un problema o no? È un problema, sì, è un problema. Ma evidentemente quelle che prendono la pillola dei 5 giorni dopo, il figlio non lo vogliono fare. Ma sai qual era il motivo per cui sono diventate 205.000? Che saranno libere di poterle fare, no? Perché è stato reso accessibile, fortunatamente. Perché puoi prendere quella pillola senza prescrizione meno medica. Meno male. Tu devi chiedere il Viagra, invece... Vai con la ricettina, con l'imbarazzo e tutto quanto. Perché è normale. Le vorresti un po' più imbarazzate? Beh, almeno che debbano andare a chiedere al medico. Almeno si vergognino un po' di avere scopato. Almeno al medico, dice, almeno chiediamo al medico se si si può fare o no. Ma ho capito, ma perché devono vergognarsi di aver avuto un rapporto sessuale? Devono vergognarsi di non volere un figlio, secondo me. Devono vergognarsi di non volere un figlio. Silvia, di qualcosa, tu che sei donna, di qualcosa, fai qualcosa. Io non voglio litigare, dai. No, ma infatti hai fatto, non dobbiamo litigare. Dici tutto tu, Adinolfi, La pillola del giorno dopo è stata una conquista, calano gli aborti, forse guarda la seconda, guarda il secondo dato. Sono le 6:39. Calano le interruzioni dopo. Di gravidanza. Esatto, calano gli aborti, cioè dovresti essere contento, perché sennò molte di quelle che se dovessero rimanere incinte, molte di quelle, non volendo un figlio, legittimamente con una legge dello Stato farebbero un'interruzione di gravidanza, lo sai. Sì. Allora, non è una pillola del giorno dopo, ma dei 5 giorni dopo. È vero. Quindi impedisce l'annidamento e dunque la fecondazione è avvenuta e è un bambino che se ne va. Il dato oggettivamente impressionante è che voi raccontate il fatto che sono calati gli aborti, ma non sono calati gli aborti, sono calati i nati. Quindi è ovvio che su un dato di natalità in decrescita è in decrescita anche il dato abortivo, inevitabilmente. Ma in questo, caso questa pillola 5 giorni dopo limita le interruzioni. Guarda che molte di quelle fare abortirebbero. Sono meno aborti perché ci sono meno nati. Ora il problema, se voi dovete fare il parallelo tra quanti sono gli aborti rispetto ai nati, oggi per ogni bambino abortito ne nascono 4. Secondo me è un parametro folle. Sì, ma sei d'accordo che alcune di quelle ragazze, soprattutto ventenni, che prendono questa pillola abortirebbero se rimanessero incinta? Non lo so, non lo trovo una grande spazio di libertà, non la trovo una conquista. Non vedo il grande trionfo per l'umanità, perché allora questa è un'altra questione. No, però statisticamente fa diminuire gli aborti. Vabbè, niente, Silvia, non ce la facciamo. Contestualmente a questo, vogliamo comunque, appunto, come dice, c'è una mancanza di educazione alla prevenzione, a un'educazione sessuale, lo diciamo. Questo è vero, vabbè. Mancanza di educazione alla vita, alla cultura della vita, diciamo. Ma dai, ma è un bambino, è una bella notizia. Ma sì, a 20 anni, perché magari è andata in discoteca e ha avuto un rapporto sessuale legittimamente con una persona che hai conosciuto, a 20 anni devi rimanere... Ma perché usi sempre questa frase legittimamente? Cioè, che cosa perché? Non puoi legittimamente... Un rapporto sessuale puoi pure dirlo senza legittimamente. Può avvenire legittimamente dopo aver avuto legittimamente un rapporto sessuale. Non vorrei che si arrivasse alla colpevolizzazione di avere una vita sessuale. Mi piace il tuo avverbio, però è interessante il retropensiero. Perché noto il fatto, vedi, doversi scusare per andare con l'imbarazzo, con la ricetta. Non vorrei che ci fosse, come dire, una per una pillola che ti fa qualcosa di importante, di solito si chiede la ricetta medica. Cioè, non è che per qualsiasi pillola che ti fa qualcosa di rilevante nel corpo, insomma, si va dal medico, si chiede, no? Si prova un po' di vergogna. Però, l'hai detto, diciamo, se c'è da sterminare i ragazzini, va benissimo farlo rapidamente, senza imbarazzo per alcuni. Vabbè, interessante come cultura generale, sempre legittimamente. ovviamente legittimamente. Vabbè, dai, parliamo. Dimmi, Silvia, dimmi. No, dai, rincara la dose, dai, su. Volevo parlare di Bersani, non ce la faccio. Volevo parlare di Bersani e le sue metafore, i tacchini, ma insomma, che palle, dai, no, vabbè, molto dai. Interessante questa, ma tutto. Allora, no, torniamo alla questione chiattona, dai. Silvia, da donna, c'è da sentirsi gravemente offese per aver sentito dire De Luca sta chiattona? Se ammetti così, sì, basta. No, ma basta De Luca in generale, cioè, va bene a scherzare, ma basta, le risate sgangherate intorno. quello è anche il contesto, subito la risata, lui che pontifica, la risata sgangherata, la voce, appunto, quella voce che dice no presidente, quello no. Ma basta. Però De Luca è uno di quelli, è uno di quelli che dice mezza pippa, cioè li sistema tutti, vuol dire, tutti quelli che. Ma di certo ha dato un assist a Sgarbi. Signori, non aveva bisogno Sgarbi di assist, ma sentite qui. Ieri sera però ho capito che con un salto analogico verso una sinistra totalmente totalitaria, nel senso positivo, cioè mussoliniana, dovrò cambiare Capra in ghiattona, detto dall'ottimo leader di destra De Luca, contro una di 5 Stelle che fa l'offesa, come il partito del vaffanculo. Basta, siamo rovinati adesso. Chi li vede in talk show con Sgarbi appena parla una donna? Ghiattona! Hai capito di Nolfi che danni ha fatto? Hai capito? Dunque, De Luca illegittimamente ha detto ghiattona, questo non si può dire questa cosa. Illegittimamente. Ti piace oggi di Nolfi sparare legittimamente e illegittimamente ovunque, anche quando andrà sul tram in uno dei suoi. Come gli scudetti della Juve. Esatto. La Juventus, per esempio, si appresta a vincere illegittimamente il sesto scudetto consecutivo, di cui 4 illegittimi, si sa. Dai signori, dobbiamo andare a sentire il traffico. Va bene questa cosa della pillola, ma hai già preparato qualche post su Facebook? No, per carità, io ho il Facebook bloccato perché sono un pericolo per l'umanità. È vero, questa cosa me l'hanno chiesta anche l'altra volta. Cioè, tu su Facebook sei stato bloccato, cioè non hai il profilo, come sei? Sei in difficoltà? Sono fermato, sono imbavagliato da Marco Zuckerberg per interferenza. Guarda, se vuoi conosco l'amministratore delegato di Facebook Italia. Non mi piace essere raccomandato. No, non ti piace. Subisco la punizione in silenzio. Dai, per favore, sbloccate di nuovo. Cosa hai fatto esattamente? Secondo loro? Non parlavo di eutanasia, non gli è piaciuto quello che ho scritto. Ma ti hanno chiuso il profilo personale? Sì. Ma motivi? Cioè, cos'è? Ripeto, perché scrivevo di eutanasia e non gli piaceva quello che ho scritto. Ho capito, ma adesso che hai fatto? Devi fare una richiesta nuova? Non ho chiesto nulla. Ma chiamati Dario Arinolfi e via. Vabbè, non risolverò così, ma è legittimo? Non lo so, andiamo legittimamente al traffico. Il vero problema di Milan è il traffico. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta... Smacchiare il giaguaro o in alternativa asciugare gli scogli di solito è una metafora per perdere tempo inutilmente. In questo caso mi sembra che Bersani ci stia riuscendo in pieno. Ciao Alino, volevo dirti che sei proprio bravo. Buongiorno Milan, le volevo ricordare che il Milan che ho venduto ai cinesi non è la C Milan ma bensì Alino Milan. E quindi dopo il closing... si prepari, studi bene il cinese e tiri fuori la sua parte comunista che è sempre stata dentro il suo profondo cuore. Buon lavoro. E lei non si è posto il problema di dire cazzo mi sto facendo un selfie con quello che è considerato anche dall'ONU un dittatore? Ma sì, tutti si considerano, ma bisogna prima prendere la realtà. Io non ho mai avuto paura di nessuno e non ho paura di nessuno, non ho nemmeno paura di te. Vedi che c'hai sempre un musulmano con la barba e i capelli. Vabbè, è la politica dei razzi che vanno tassate e si fanno delle gran risate, questo è cara Silvia, eh? E che devi fare, signora? Giustamente. Allora, signori, però, cosa sta succedendo invece? Adesso due cose di politica, anche se è noiosa, legittimamente le vogliamo dire, caro Mario Adinolfi. Allora, c'è Berlusconi che punta a Calenda, questo almeno secondo i rumors dei giornali. Calenda che sta al PD, cioè nel senso è tecnico, ma sta in un governo del PD, giusto così, per dire. Poi c'è gli scissionisti che si scindono, Renzi che attacca l'Europa, tutto un già visto, insomma. Eletta che difende l'Europa, certo, si sa, Letta. E poi fa l'endorsement su Orlando. dice che vuoi tornare. Marione, ho dimenticato la notizia del giorno. Vabbè, ma Mario, che succede in politica? Dacci le due o tre chiavi per capire dove si va. Mi pare una fase eccezionalmente appassionante. Renzi sta via a conquistare il Partito Democratico in maniera plebiscitaria, mi sembra. I dati dei congressi sono abbastanza interessanti. Vince ovunque, ha vinto la Bolognina, dove è arrivato terzo addirittura l'ultima volta, dietro a Cooper, a Civati addirittura, adesso lo stravince lui. Non lo so, insomma, il dato di un Renzi che si impadronisce di un partito del 30%, lì sì, in maniera a questo punto senza possibile dialettica reale. E dunque si mette al centro di un campo, ricordo sempre, che è un campo nuovo, un campo con la legge proporzionale, dove l'unico che può disporre di una forza del 30%, diciamo così, massimamente coesa e allo stesso tempo duttile, perché è capace di costruire alleanze, è lui. Credo che insomma sia una novità non da poco, molto sottovalutata dai giornali. Di quello che fa Letta, francamente, mi sembra molto poco rilevante. Tra l'altro, Marione, voglio far sentire a te, ma anche a Silvia Brasca, nota tifosa dell'Inter, la metafora di Renzi. Sentite qua, Renzi. C'è un partito, non dirò quale, chi segue queste cose sa qual è, ma non mi interessa aprire una polemica ad hoc su quelli, che nel giro di 24 ore ha cambiato due volte la propria appartenenza a un gruppo parlamentare europeo. Stava in un movimento anti-europeista per eccellenza. Nel giro di 24 ore questi hanno chiesto l'iscrizione al gruppo più europeista, quello che cancellerebbe la sovranità nazionale del paese. Cioè tu passi da lei, è come uno che dalla Juve diventa la Fiorentina e poi torna alla Juve, inaccettabile, no? Cioè come quel principio, siete d'accordo? Beh, su questo sì, siamo abbastanza d'accordo. Parlare del 5 Stelle, ti piace la metafora, Mario? Sì, la cosa interessante è la dialettica del prossimo anno, sarà tutta, se il 5 Stelle fa il 40% o no. Se il 5 Stelle non fa il 40%, vince Renzi. Questo è lo schema su cui ci dobbiamo abituare ad ragionare. Vince Renzi, ma con chi? Vince Renzi, ma con Berlusconi. Con gli altri, ovviamente. Con Berlusconi. Ma è ovvio, ma Berlusconi è complementare a Renzi. Questo non è chiaro in maniera lampante. Quindi la partita è solo questa. Il 5 Stelle fa il 40%? Oppure, punto di domanda. No, sì, tu che pensi? Ce la faranno arrivare al 40% addirittura? Beh, stanno facendo di tutto gli altri per farli arrivare al 40%. Tipo con le storie di Minzolini, dai, diciamolo. Tipo con le storie di Minzolini. Ci sono un po' di mosse che... Però c'è... sono lì e... Secondo me appunto loro si è visto che non si muove, cioè nel senso, dall'Europa a tutta la questione Raggi, loro stanno fermi, cioè, non calano di nulla, quindi più quello che ci mettono gli altri ci può stare. Mario, ce la fanno arrivare al 40? Il sondaggio che ho visto, l'ultimo, lo dava al 32,3, mi è sembrato molto impressionante, io non avrei immaginato, insomma. Mancano 8 punti percentuali, a parte che è un sondaggio, ma mancano 8 punti. Ma 32,3 oggi, a un anno di distanza, insomma, non è poco per niente. E poi il paradosso è che tutto questo era stato cucito da Renzi su se stesso. Era lui che pensava di poter fare il 40%. Il paradosso della storia, come sempre con le leggi elettorali, chi che le scrivi per te e le usano gli altri. Questo è davvero. E chi le scrive le vuole cancellare. Ma signori, dovrebbe spiegare alle classi dirigenti che cucirsi le leggi addosso per fare una grande mossa. Ma signori, è il momento di volere iniziare. Noi dovremmo fare, cioè, ma dobbiamo fare anche una sigla, però, caro Lorenzo. Non è che possiamo. Questo è lo psicologo di D'Alema. Usiamo la sigla dello psicologo di D'Alema. Ma in realtà vogliamo parlare di un'altra grande iniziativa che vogliamo lanciare qui. Sono le metafore di Bersani. Signori, le metafore di Bersani, che chi le capisce, io gli stringo la mano, gli do un premio. Le metafore di Bersani. C'è tanta gente da noi che preferisce avere in mano un passerotto che avere il tacchino sul tetto. Ecco, io questa ci ho perso tre notti, avere in mano il passerotto piuttosto che il tacchino sul tetto.